ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. E allora, è l'ultimo sabato di luglio e quindi si chiude oggi la nostra stagione, mangia come parli. Buongiorno a tutti e buongiorno con me, a lo chef, buongiorno. Come stai? Sono, devo dire, bene, grazie a Dio bene, stiamo pronti per andare in vacanza, faremo poche vacanze, meno dell'anno scorso. In Italia? Oggi facciamo una vacanza qua, italiana. Assolutamente. La puntata di oggi è una puntata un po' atipica, nel senso che viaggeremo da nord a sud in dei luoghi che sono luoghi dal grande fascino turistico, montagna, mare, città d'arte, veramente da nord a sud. E cominciamo questo nostro viaggio con Corrado Tedeschi, autore, conduttore televisivo e insomma, Corrado, tu sei nato a Livorno però sei genovese, no? Ciao Corrado, buongiorno. Ciao, buongiorno, che piacere. Sì, io sono figlio di un ammiraglio della Marina Militare, quindi sono cresciuto in tutti i porti d'Italia e poi a 10 anni sono approdato a Genova. E Genova è stata la mia città fino all'85, diciamo, e poi Milano. E carriera da calciatore, insomma, nel frattempo anche. Beh, sì, con la maglia del Doria. E io sai che da piccolo sognavo di venire a doppio slalom, forse ho mandato anche lì, ma davvero, ricordo bellissimo il doppio slalom, mi ricordo che erano due concorrenti, dovevano indovinare 5 risposte, no? E invece uno da solo 4, era bellissimo, era veramente bellissimo. I famosi esagoni, esatto. Da dove è venuto fuori televisivamente Salvini, tra l'altro. Sì, esatto. Ha fatto il concorrente. Perché il derby Salvini-Renzi Renzi era andato alla ruota della fortuna, giusto? Esatto. Mentre Salvini a doppio slalom. Lo so, sì. Com'era Salvini a doppio slalom? Aveva vinto? Era andato bene? Ma ti dirò, quando mi chiamò Vespa per farmi vedere questa roba qua, e non lo sapevo io che avevo avuto Salvini. Ovviamente, non ti puoi ricordare tutti i concorrenti. Però era preparato, molto preparato, devo dire. Anche Renzi era preparato quando fece. Renzi erano dei mostri. Decisamente. Sono rimasti mostri. Grande battuta, ultima puntata di Oldani. Peccato che Oldani adesso non potrà più lavorare nel nostro paese, verranno chiusi i suoi ristoranti. Va bene, democraticamente, fra l'altro, insomma. Va bene. Ma certo. Senti Corrado, com'è il tuo rapporto con la cucina ligure? Io direi partirei da qui, insomma, questo è un anno di vacanze italiane, di un po' di affanno, lo sappiamo, per i nostri pesto alberghi. Pesto con per aglio o senza aglio? Insomma, iniziamo subito a gamba tesa, dai. No, senza aglio è una vergogna. No? Eccolo qua. Ma dai, non è una... il pesto è con l'aglio, va fatto tutto nel mortaio, nel piccolo mortaio. No, vabbè. Sì, è roba religiosa. E il pre-bujun, no? Sì, la precensione dei nomi genovesi, di erbe genovesi meravigliose. La borragine, no? Ligure, certo, anche quella. Certo. Perché la borragine è l'unica erba, verdura che può dare il colore azzurro con i suoi fiori al cibo. Lo sapete questo? No, non sapevo. No, bello, sì, si può trasformare, perché l'azzurro nella cucina è invisibile, non c'è, però la borragine ha il suo fiore che può permetterti di fare un impasto azzurrino. Ecco, scusate l'intermezzo. Sì, ma figuriamoci. Poi il pesto di Pra, ci sono delle zone proprio che noi liguri conosciamo molto bene. La Liguria ha una cucina meravigliosa. Adesso è un po'... È un po' difficile raggiungerla la Liguria. Sì, c'è un po' qualche problema, anche se sappiamo che questo è l'anno della, insomma, di quel ponte che rappresenta un simbolo di ripartenza, di coraggio, di speranza, ovviamente nel rispetto e nel ricordo delle vittime assolutamente innocenti di quel giorno terribile di agosto. Ecco, questo è il punto di partenza, però è chiaro che è anche un simbolo l'Italia che pian piano, faticosamente, con tutti i suoi limiti, prova a ripartire e a mettere insieme i pezzi del proprio futuro. Quindi, insomma, le tue passioni, se io ti chiedessi la cosa proprio alla quale non sai rinunciare, o quando torni in Liguria, la prima cosa di cui hai voglia dal punto di vista gastronomico, qual è? No, il pesto. Perché è inutile, ha un altro sapore lì. Sapendo dove andare, il pesto ha un altro sapore, non c'è niente da fare. Corrado, tu cucini? Io sto per fare un monumento ai signori che hanno inventato i sughi pronti. perché in questa quarantena sono diventato un grande cuoco di sughi pronti ed è meraviglioso. Cioè, hanno dato una mano ai single, devo dire, straordinario. E ci sono delle cose molto buone, tra l'altro. Vero. Compreso anche una piccola parte di pesto fatto con un basilico di qualità, concordo. L'importante è magari quando si utilizza il pesto, diciamolo, non scaldare, cioè non saltare la pasta in padella su un fuoco vivo, su un calore vivo, ecco. Magari scolliamola, mettiamola in una ciotola fuori dal fuoco, aspettiamo, esatto. Contiamo fino a 10, 1, 2, 3. Tanto è stato, un goccio d'olio, non c'è bisogno di bruciarlo. No, però anche nel caso facessimo in situazioni diverse da questo clima, sempre trattare il pesto con riguardo, perché è un'erba fine che perde qualità nel momento in cui la scaldi. Per cui sempre fare una mantecatura fuori dal fuoco, giusto servirla con la temperatura giusta, dicevo io. Poi io adoro le acciughe fatte alla Ligure. Insomma, un'altra le roba. Le acciughe cantate da De André, le acciughe fanno il pallone. Anceve. Le anceve, sono fantastiche, sono straordinarie. Io invece la cucina Ligure è un... Poi, come tutti i luoghi d'Italia, no? C'è una rispondenza profonda, precisa, fra quello che mangiamo e quello che siamo. Quindi quell'idea molto semplice, molto nobile, molto antica della cucina ligure, anche povera, insomma, non c'è nulla di cui vergognarsi, no? È povera ma estremamente gustosa, con degli ingredienti che sono favolosi appunto nella loro semplicità. Anch'io sono un grande acciughista, devo dire. Io direi che possiamo dedicare a Corrado una ricetta. Preferisco le acciughe al caviale. Sì. Bravo. Ci sta, assolutamente. Però che le acciughe non siano stracotte, attenzione. No, non è che ti sembro uno che stracuoce le acciughe, così guardandomi in faccia. Claudia, sembro uno che stracuoce, no, non le stracuocio. Anche crude, certo. È chiaro, crude è meglio che un tentativo di cuocere che poi scuoce, perché tu sai che il pesce azzurro è privo di grassi, per cui rimane subito stopposo. Allora, per un rispetto del prodotto bisogna fare attenzione. Io direi, possiamo dedicare la scorzo nera, che è un prodotto dell'entroterra ligure, non so come si chiami in dialetto, però io la chiamo scorzo nera, fritta aceto con aceto di lampone. Possiamo dedicartela, Corrado? Ma grazie, dai, non allora, sono mai capace di rifarla, però grazie. Prendi una penna, prendi un foglio e scrivi. Scrivo. 800 grammi di scorzo nera sbucciata, che è quella naturalmente con la scorza nera, che va pulita, sbucciata per bene, tagliata a losanghe di 4 cm e cotta in 2 decilitri di acqua salata e 1 decilitro di succo di limone, per dare un po' di acidità e per mantenere quel bianco vivo che sotto la scorza nera ha. Poi prepariamo una pastella con 100 g di farina di grano tenero, 3 cl di vino bianco passito, quindi dolcezza, 3 cl di acqua fredda, amalgamiamo bene il tutto e aggiungiamo alla fine 80 g di albume d'uovo montato a neve con un pizzico di sale fine. Allora, questa è una ricetta di una persona a me cara, anziana, che però riprende un po' quel modo di friggere, di impanare, di impastellare, se si può dire, cinese. Okay? Quando c'è un albume che fa da copertura, in questo caso della scorza nera. Poi prepariamo per contrasto un agrodolce che è fatto con 2 decilitri di aceto di lampone ristretto a 2/3 a calore molto dolce, a calore basso, con 2 foglie di eucalipto. E ancora qui cadiamo sulla cucina ligure, perché se tu fai l'autostrada o scendi in alcuni paesini, ci sono gli alberi di eucalipto che a me piace molto. Per cui in questo aceto aggiungerei 2 foglie di eucalipto, una grattugiata di noce moscata, lascerei ridurre ancora, e ottenendo poi uno sciroppo che sa di eucalipto e acidulo. Basta, poi passiamo le losanghe di scorzo nera nella pastella, le friggiamo in 2 litri, quindi abbondante olio di semi di girasole. mantenendo una temperatura di 155 gradi, per cui non facendo bruciare l'olio, per cui non dando quel profumo intenso di olio extravergine d'oliva che magari in questo caso sarebbe fuori luogo. E poi le disponiamo in quattro piatti diversi con delle foglie, se vogliamo, di prezzemolo piatto fritto per dare un colore verde, un profumo intenso di freschezza di prezzemolo, e poi a fianco una ciotolina con questo nostro agrodolce nel quale intingiamo la scorza nera. Punto. Poi c'è sempre il solito elemento di acidità nella frittura, no? Che dobbiamo trovare sempre un modo per contrastarla. In maniera volgare potremmo mettere una spruzzata di limone, che però andrebbe ad ammorbidire la frittura croccante. In questo caso io invece intingo in questa salsa di aceto e eucalipto il tuo pezzettino di scorza nera, poi degustandola così secondo me rimarrebbe più interessante. Corrado, mi sembra, no? Che meraviglia, ci siamo. Facciamo il traffico, che insomma, è un altro tema particolarmente caro a quelli che frequentano la Liguria, e poi torniamo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Mangia come parli. Siamo con Corrado Tereschi, abbiamo appena ascoltato la ricetta della scorza nera fritta con aceto di lampone e insomma il pensiero, vabbè, le madeleine, no? I ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza in queste calde giornate liguri con tutti i sapori, i profumi di questa terra, no? È una terra meravigliosa, veramente spesso una terra da scoprire, come Genova, una città, come diceva Fossati, è una città che si vede solo dal mare, quindi è una città, Genova, da scoprire, tutta la Liguria da scoprire, perché è veramente bella e ha dei posti straordinari da conoscere, con delle ricchezze dal punto di vista enogastronomiche meravigliose. È la vera cucina mediterranea, perché poi il bacino del Mediterraneo, gli ingredienti sono quelli dappertutto, certo, per cui trovi delle cose in comune ovunque per quello che riguarda il Mediterraneo. Ma la cosa bella che tu dicevi a proposito del cibo, della bellezza, dell'amore per il cibo, a parte la Liguria, che vabbè è un posto magico anche da quel punto di vista, io faccio l'attore, per cui faccio tournée da 40 anni e tu devi sapere che l'attore riesce a mangiare bene sempre, dovunque, anche in cima a un cucuzzolo dove c'è, magari finisce il teatro, tu dici, arrivi nel paese vuoto e dici, ma mo chi viene a teatro? Pieno, e poi finisce che c'è sempre una lucina in cima anche al culo di un ristorante che ti aspetta e tu mangi da Dio ovunque. E devo dirti, io, anche per il giornalista sportivo, sì, immagino. Siamo abbastanza simili, soprattutto con le partite serali. Devo dire che anche se sicuramente dal punto di vista della dieta non è molto consigliato, io credo che una delle cose più belle della vita alle quali veramente farei fatica a rinunciare è la cena tardi dopo aver lavorato, perché Brera e Mura hanno insegnato tanto. È un momento di, secondo me, di scarico, di tensione, di fatica, ed è un momento in cui veramente vengono fuori anche tante idee belle. Insomma, la convivialità in quei momenti lì è straordinario. Ci si arricrea, direbbero a Napoli. È bravo. Quando io scelgo le partner dei miei spettacoli, le scelgo sapendo quanto godono dopo a tavola. Dopo ah, certo. Ci sono quelle che vanno in albergo e si fanno un cecio arrosto, eccetera. Quelle che amano. Guarda, se ti serve un attore per dei piccoli capi, io dal punto di vista dell'attore sarò scarso, però sulla cena dopo ti assicuro che vengo comunque in qualsiasi situazione e ci divertiamo. Ciao Corrado, buona estate. Ciao Corrado, grazie. Buona estate, viva la Liguria. Grazie Davide, grazie Pierre, speriamo bene per la Sampdoria. Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare, quindi non stia lì a cercare di trovare qualcosa di meglio, qualcosa di più di quei gerani che la gioventù fa ancora crescere per le strade. Va bene, basta, Fossati mi ha emozionato. Andiamo da un'altra parte d'Italia altrettanto bella, perché insomma noi celebriamo il mare ma celebriamo anche la montagna. La montagna è un universo ideale, no? Una categoria dello spirito, di sapori forti, di tradizione, anche la montagna ovviamente di ha una clima, sua ricchezza, di temperature diverse, di grandi cuochi. Alessandro Gilmozzi, ambasciatore del gusto, tra l'altro chef del ristorante stellato El Molin a Cavalese in Val di Fiemme. Ciao Ale, come stai? Ciao Alessandro. Ciao Luigi, ciao Davide, spero stia tutti bene, grazie sì, di averti sì. chiamato. Com'è quest'estate? Quest'estate post pandemia, però con tanta voglia di Made in Italy, con tanta voglia di star bene, no? Che è la cosa più importante. Ma guarda, hai detto bene, tanta voglia di Made in Italy e di interpretare il territorio in maniera globale, con tanta voglia di far bene e di far star bene la gente, quindi siamo ripartiti in maniera forte. Io pensavo, ero un po' scettico all'inizio, devo essere sincero, pensavo di avere un po' più problemi con il ristorante stellato, invece siamo partiti veramente forte la settimana scorsa, e se funziona così la montagna secondo me ha un valore aggiunto, perché non fa sembramento e quindi possiamo far star bene la gente in sicurezza. Sai Alessandro, è merito della montagna, ma è merito dei professionisti come te, che evidentemente prima hanno seminato bene, per cui distanze, qualità, puntare solo su queste due cose ci permette adesso nella ripartenza di avere quello che tu stai raccontando, per cui credo ancora di più nel dopo pandemia che ci sia una grande ristorazione, una ristorazione che ci merita e che noi meritiamo, dove avremo e potremo fare quello che tutti noi abbiamo in testa. Anch'io nel mio piccolo abbiamo levato alcuni tavoli e credo non li rimetterò, proprio per dare un servizio di ancor più alta qualità. Non so se condividi questa cosa anche tu. Condivido benissimo Davide, hai ragione. Anch'io chiaramente noi nei nostri ristoranti abbiamo tante regole, soprattutto in cucina, in sala devono essere attenti. Abbiamo aggiunto regole alle regole, appunto per ti faccio un esempio: in cucina abbiamo un timer che oltre a quelli che suonano per il forno, ce n'è uno che suona anche per la sanificazione, quindi la sicurezza è globale, e quindi sanifichiamo ogni 35 minuti, che ci sia la lavorazione o meno, che siano le mani o no, esatto. E in sala ugualmente, i ragazzi, io ho apportato un piccolo protocollo in più, in modo che, sai, tante volte devi fermarti comunque col servizio e controllare che ci sia tutto l'apparato con molta attenzione in sala. E io faccio togliere anche la mascherina ai miei ragazzi, no, tante volte in sala, appunto perché non ci sia, sai, quell'imbarazzo da ospedale, no? Quindi sì, vanno sul tavolo, servono, spiegano e dopo si mettono in un angolo e tolgono la mascherina, certo. E quindi c'è anche un intercambio, no? Assolutamente. Ecco, questa cosa con gli ambasciatori del gusto dovremmo continuare a insistere, Alessandro, per un bene, per il bene nostro e per il bene dei nostri ospiti, ad essere un po' tutti uniformi, cose che non ho visto ovunque, però garantisco che nei ristoranti stellati di fine dining queste regole sono non tenute. No, io volevo parlare un po' della tua cucina, perché c'è il rapporto col territorio, con uno spec che tu fai personalmente, col burro di malga al ginepro, tanto per fare qualche esempio. Sono informato soprattutto sull'elemento del fuoco, che mi sembra un po' il tuo marchio di fabbrica, no? Questa tua capacità di giocare con cottura a bassa temperatura e la creatività che tu sei riuscito a dare al fumo, che per te è un vero e proprio, non so se è una tecnica, se è quasi un ingrediente, no? Ma sì, alla fine però non abbiamo scoperto nulla, ecco, siamo solo andati indietro nel tempo e preso le vecchie tecniche di cottura e miscelate a quelle nuove, a tecniche nuove, ma il lavoro grosso secondo me lo fanno i nostri contadini. Noi abbiamo una rete importante di contadini, allevatori che ci forniscono ogni due giorni prodotti che sono veramente eccezionali, no? Da quello che può essere una semplice carota a un fiore commestibile, e quindi il lavoro grosso lo fanno loro e devo dire grazie a loro. Poi chiaramente diciamo che la voglia di scoprire e di studiare c'è sempre, quindi il mio ristorante di ricerca, e proponiamo sì anche lo spec fatto in casa come una volta, anche se ci siamo adeguati alle regole di oggi. E quindi abbiamo delle salature diverse, dei prodotti diversi, con dei sapori anche diversi, perché alla fine uno speck non deve essere né troppo affumicato né troppo salato, no? È una delle cose. Poi il fuoco la fa da padrona, perché possiamo metterci anche una trota sul fuoco, però usiamo delle braci fatte con le pigne fantastico, danno una profumazione diversa alle cose, no? Quindi hai questo sentore di bosco e di territorio, che sono le nostre Dolomiti, che sono magiche per me, che ti danno il valore aggiunto. Io direi che questo era già stato scritto, l'ABC della cucina, anche della griglia se vuoi, quando poi è stato tradotto nel troviamo la carbonella, facciamo con quello che capita la griglia, che non ha senso, bisogna, bisogna nella carbonella prima cosa cercare il legno, creare dal legno il carbone dà quel profumo in più al alla diventa carne, un ingrediente, diventa un ingrediente che completa il piatto. Grazie Alessandro, un'ultima tua cosa, un augurio alla ristorazione italiana in quanto ambasciatore del gusto e poi ti lasciamo al tuo sabato mattina. Guarda, grazie veramente di avermi chiamato, è stato un piacere. Io volevo spendere ancora una parola per gli ambasciatori, perché con gli ambasciatori è il progetto che facciamo con Fare Rete, che siamo riusciti quest'anno a mettere assieme 30 associazioni, più di 100.000 addetti firmatari, per farci ascoltare dal nostro diciamo dai nostri politici. Speriamo che lo facciano sempre di più, perché il nostro comparto merita, perché noi difendiamo il Made in Italy e il nostro e la nostra bella Italia. Grazie Alessandro. Non c'è dubbio su questo. Facciamo lo spazio news, mi sembra una buona idea. Vai. Allora, l'alimentare resiste alla crisi, meno male, anche con i prodotti che puntano sulla salute, che ovviamente è uno dei focus, direi, anche filosofico-ideologici di questo momento. Un'indagine ha analizzato i dati di bilancio di 832 aziende in 15 comparti. Le previsioni dei ricavi non sono chiaramente positive, però, insomma, meno 5,5%, e ci si attende il rimbalzo poi nel 2021. L'immagine del nostro cibo è ovviamente molto importante. Su queste 832 aziende che operano in 15 comparti, su questo l'ho fatto questo panel, pensate che queste aziende rappresentano il 71% delle società di capitale del food, quindi è estremamente significativo del stato generale del nostro settore, di tutto il comparto. Le medie del Trentino, ci spostiamo a poca distanza da Alessandro Gilmozzi, arrivato definitivamente da parte dell'Unione Europea la nuova IGP, riconoscimento in vigore da qualche giorno, dal 20 luglio di quest'anno, ed è un'altra eccellenza alimentare italiana che conquista una nuova IGP. Parlavamo dei limoni dell'Etna. Quante IGP che ci sono nell'Italia, per cui è una cosa molto, questo è fondamentale, perché noi dobbiamo far vedere al mondo e far capire al mondo la forza dei nostri prodotti, e questo diventa anche un traino dal punto di vista turistico e dal punto di vista dell'immagine del nostro paese. La bellezza ci salverà, mi è venuta così. E poi Cibus, l'evento Figital col PH per rilanciare il settore alimentare a settembre. Cioè Figital, spiegacelo. Beh, l'aspetto fisico e digitale messo insieme, dalla transizione alla trasformazione post-Covid. Parma, che sappiamo è la città storicamente del Cibus e che quest'anno fra l'altro era la capitale della cultura, non è stata certamente fortunata la bellissima città emiliana. Ebbene, dopo il rinvio dell'edizione 2020 della fiera in attesa di quella del 2021, c'è comunque questo appuntamento 2-3 settembre nel quartiere fieristico di Parma. Quindi Cibus Forum Food and Beverage e Covid, questo è il tema, e verranno tutti accolti in fiera, seminari, sessioni di discussione per capire come ripartire, come rafforzare. Digital webinar, questo nuovo metodo di comunicare. Parliamo, no? Tranquillamente. Va bene, ci fermiamo fra un attimo, andiamo in Sicilia, fra poco. Mangia come parli. Allora, seconda metà della nostra trasmissione, ultima puntata dell'anno dedicata a questo viaggio in Italia, a questo giro d'Italia da nord a sud per raccontare la bellezza del Made in Italy, la grandezza del nostro paese. Io penso che un po' d'orgoglio, al di là dell'inno cantato sui balconi all'inizio del lockdown, lo dobbiamo sentire poi nella quotidianità, no? nel vivere il nostro paese, nel godere della bellezza del nostro paese, perché le percentuali di persone che rimarranno in Italia fare le vacanze sono altissime. Alte, per cui comunicazione perfetta, assolutamente. Un po' è anche un impedimento dovuto alla difficoltà di viaggiare, ma è un problema che possiamo e dobbiamo trasformare in risorsa per il nostro paese. Adesso andiamo in Sicilia, ci andiamo con un ospite straordinario, con Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore. Come stai? Buongiorno. Tutto Pietrangelo. Come stai in Bari? Sa benedica. Come stai? Sei mamoriano? Sei monfiano? Sei catanese? Chiedo scusa a tutta la comunità etnea. Chiedo scusa, non volevo permettermi. Traglierei. Senti, se c'è un luogo dove veramente il barocco si esprime nella sua grandezza, nella sua bellezza, nell'arte, nella politica, perché anche la politica vive di sentimenti barocchi, e anche nel cibo, è la Sicilia, è la tua Sicilia. Credo che ci sia un'abbondanza, no? Una forza, una ricchezza enorme. Abbiamo bisogno di complicazioni, perché senza le sfumature, senza ulteriori dettagli, incastri, il ragionamento poi diventa una banalità. E allora c'è la Sicilia che, a differenza di tutti gli altri che devono scegliere tra il bene e il male, nella dialettica la Sicilia è trialettica, infatti è triplice, infatti è triangolare, insomma c'è sempre una possibilità ulteriore. Esatto, sempre il 3, il numero perfetto. Tre ingredienti della Sicilia importanti, triangoliamo con tre ingredienti. Bell'idea. Tre ingredienti per la Sicilia? Sì. Importanti. Importanti, allora sì. Non lo so come si dica in italiano, azzeruolo forse, quindi la zalora, che è un frutto preziosissimo, è una piccola mela con dei semi grandi, squisita, ghiotta, fa venire l'acquolina in bocca e si gusta rubandola dagli alberi. Perfetto, poi? Poi, è così, ancora un... la mandorla, però la mandorla verde, non la mandorla compiuta, matura. Quella ad aprire il 23 di giugno, giusto? Che sgranocchi immediatamente. Ah, tu dici in questo periodo? San Giovanni, no? Il mandorla è... No, San Giovanni noi mangiamo i babbalucci. Ah, ok, no, però la mandorla ci sta, no? A San Giovanni, giustamente. E poi voi lo sapete, lo diciamo in un orecchio, mi raccomando, non lo facciamo sentire ai nostri ascoltatori, che il concetto di babbaluce, lumaca, è l'insulto perfetto per eccellenza, perché con una sola parola uno gli stai dicendo bavoso, cornuto, sì, si canterra. Fantastico. Quello che è facchino, soprattutto è portangoggio, no, facchino. Ecco, ben quattro insulti potentissimi. Però... in una parola sola. Lo sai che l'idea di mangiare la mandorla... Ma manca la terza, Aspetta, una piccola incursione sulla mandorla fresca mangiata, che sì, secondo me è una delle cose più buone al mondo, posso dirlo. Minnolicchia si chiama, è buonissima. Come si chiama, scusa? Minnolicchia, ok, io non sapevo, e devo dire che nel fine dining italiano più o meno 20 anni fa veniva scoperta questa cosa che è parte della cultura italiana, cioè il mangiarla verde, che credo che non sia o non fosse stato possibile dalla legge, proprio per una questione di sole o di maturazione. Però tu quando hai in mano questa mandorla, a parte è costosissima, però devi sbucciarla, la prima parte che è verde, poi la parte interna sbucciarla, e hai in mano una mandorla molto tenera a tatto, poi quando la mangi rimane molto croccante. Questa moda, devo dire ahimè, è stata importata molto dal fine dining spagnolo, ma una ventina d'anni fa. Adesso l'abbiamo riscoperta, per cui stiamo valorizzando molto bene anche la mandorla prematura in Italia. Scusa, dovevo dire questa cosa. Molto interessante. È buonissima. La mandorla prematura, o comunque minnolicchia, io intanto proprio ne faccio incetta. Sono squisite, perché poi vedete, inseguendo l'estate, no? che va a arrivare al suo trasfigurarsi nella luce decembrina, perché in Sicilia l'estate è anche quella che arriva a dicembre, proprio il piatto in assoluto più ghiotto è quello di farsi la camminata tra gli alberi e i cespugli e raccogliere, e trovi di tutto. Per esempio, un altro frutto squisito, e porca miseria non so come si dica in italiano, sono i millicucchi, sono degli alberi maestosi, grandissimi, ce ne sono per esempio vicino ai cimiteri. Millicucchi? I millicucchi. Faccio una cosa veramente glocal, vado su Google, allora, millicucchi, adesso no, andiamo su la Google. La manna qualcosa, no, niente a vedere. Millicucchi, qui mi arrivano una serie di immagini bellissime. Ok, vedo, no? È il millicucco bagolaro dell'Etna, Celtis etnensis, pianta spontanea. Buona. Perché poi il seme, una volta che è stato rosicchiato, è perfetto da usare nelle cerbottane per fare gli alle amiche. quindi a puntare sull'alto calcagno. E il terzo? E entriamo in una pagina di Brancati. Sì, esatto, esatto. E comunque in una cosa da, appunto, da non fare, cioè voglio dire da, da conoscere come, come elemento culturale, diciamo, però no, da non ripetere. A me è venuta voglia di pasta alla norma, ma anche, anche, anche di cucina di strada, perché voi avete, per esempio, avete la carne equina, per esempio, a Catania, che è particolarmente. Sì, sì, a, a Catania, certo, la carne di cavallo. Poi questo, questo cibo di strada è meraviglioso, perché poi tutte le varianti possibili, immaginabili delle carni, le carni poi nelle oscure profondità, nei visceri propri che vengono confezionati e preparati al di là di qualunque normativa europea, perché immagino siano proibitissime, ma sono una cosa meravigliosa. E soprattutto impongono una postura d'obbligo, tant'è che quando si cammina e si incontrano e ci si perde tra questi profumi, tra questi effluvi, il gustare presuppone una postura particolare, che è quella di fare sgocciolare il grasso per evitare di macchiarsi, e quindi si sta tutti in una posizione quasi di inchino riverente, curva, curva, sì, sì, per evitare guai, alla perfezione del gusto. Senti, che rapporto hai con le sarde marinate? Ottimo. Ottimo. Allora, Oldani, sarde marinate, salmoriglio e salsa di more, vai. Beh, salmoriglio è dovuto alla Sicilia. Salmoriglio visto da un milanese potrebbe essere fatto con la maggiorana fresca e l'origano fresco, che insomma è un po' la famiglia. Per cui ho utilizzato le more, perché è un prodotto che amo e poi dà dolcezza. Laviamo e frulliamo 100 grammi di more con 2 centilitri di olio extravergine di oliva. Questo, in questo caso usiamo un siciliano, naturalmente. Poco sale, frulliamo, passiamo a setaccio fine e lasciamo da parte una salsa setata e molto densa in questo caso. Per le sardine le squamiamo, le laviamo, le priviamo dalla testa e dalla parte della lisca centrale. Le mettiamo a marinare con un decilitro di aceto di lampone, 4 centilitri di olio extravergine di oliva e poco peperoncino dolce in polvere. 40 grammi di zucchero e 10 grammi di sale fino. Le lasciamo per un'ora, le leviamo dalla marinatura, le sciacquiamo, le asciughiamo per bene e poi le serviamo in 4 piattini separati con questa salsa di more. Possiamo terminare, come dicevo prima, con qualche foglia di nepetella, maggiorana oppure origano fresco, che è un'altra cosa rispetto all'origano secco. Totalmente un altro profumo. Poi, volendo, io dedico a Pietrangelo questo piatto, perché gli aggiungerei, che secondo me è un ingrediente che ama, delle foglie di cappero. Beh. Sì. Posso darvi capperi un altro salmoriglio peccaminosissimo? Sì. Allora, che speculare a tutto ciò che abbiamo sentito e che fa sognare, che riguarda il mare, speculare perché riguarda la campagna. Ed è quello di fabbricare un salmoriglio adatto e speciale per i carciofi selvatici, che in siciliano si chiamano capozzoli. Sono quelli che hanno le spine, che sono vere e proprie lame, taglientissime e dolorosissime. E questi sono carciofi spinosi, piccoli, che vengono fatti bollire nell'aceto. Dopodiché, una volta raffreddati, vengono spiluccati foglia dopo foglia, facendo attenzione a non pungersi, e hanno un sapore unico, intinti in un salmoriglio semplice di olio e sale. Una cosa da proprio cosa si può dire, li mangiava avidamente niente meno che Vulcano, in attesa dell'arrivo di Proserpina tra le viscere di Etna. Mamma mia, siamo su livelli altissimi. Pietrangelo, l'abbracciamo. Pietrangelo. Buona estate, buona estate, buona Italia. A voi. Buona Italia. Grazie. Allora, i più attenti avranno notato che Davide Oldani ha scritto un libro che si chiama Mangia come parli, con tutte le ricette della stagione di Mangia come parli. Anch'io ho dato un mio umile contributo nel raccontare il viaggio per l'Italia dal punto di vista intervengo, sono preso in giro da Claudia, da Pier, allora, in diretta qua, però il libro l'ha spiegato molto bene Pier, perché è il nostro libro, con il suo viaggio in Italia andando a mangiare nei più bei, ma con le tue ricette, soprattutto il mio viaggio in Italia è relativo, ma le ricette sono le tue. Vabbè, insomma, per vincere questo libro, del quale, come vedete, c'è una certa timidezza nel parlare durante questa trasmissione, potete rispondere a questa domanda. Allora, in quale anno i peperoni cruschi tipici di Senise hanno ricevuto il marchio IGP? La so. indicazione geografica protetta, va bene, mandate la mail a mangiacomeparli@radio24.it, il più veloce, quello che sarà andato più velocemente su internet, diciamo, a cogliere la domanda, avrà il libro con la dedica di Oldani, fra l'altro, no? Tu dedicherai una bella, dedica peperonata. Va bene, ci fermiamo solo per un attimo, solo per un attimo, perché fra poco abbiamo il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parleremo della Ciccia, parleremo anche delle città d'arte, perché abbiamo fatto un viaggio da nord a sud, dal mare alla montagna, ma poi c'è la bellezza, l'arte, la storia delle nostre città. Fra poco. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Mangia come parli, mangia come parli. Siamo quasi in chiusura in questo nostro viaggio in Italia. Siamo andati prima in Liguria, poi ci siamo spostati sulle Dolomiti, abbiamo fatto un viaggio in Sicilia con Pietrangelo Buttafuoco. Adesso andiamo nelle città d'arte, che sono tante in Italia, perché non c'è una città in Italia che non sia una città d'arte, anche quelle che magari sono famose per il mare, per la montagna. Poi tutte hanno un campanile, una chiesa di 700 anni fa, di 800 anni fa o addirittura di tempi più remoti, però alcune città ovviamente hanno un valore molto particolare. Noi siamo felici di avere con noi Dario Nardella, sindaco di Firenze. Come va, sindaco? Com'è quest'estate, insomma, non semplice, ma io credo anche di orgoglio e ripartenza per il nostro paese. Dario, buongiorno. Buongiorno amici e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Intanto è molto calda, almeno per questi giorni, però è bellissima. Io sono d'accordo con Pierluigi, perché dobbiamo rimboccarci le maniche. Firenze ha superato tanti momenti difficili, ricordo l'alluvione, perfino la guerra mondiale, si è sempre rialzata, c'è voglia di ripartire, e credo che però chi voglia visitare, vedere Firenze un po' più tranquilla del solito, senza il caos, senza le code, non può che venire in questo periodo, perché la città è bellissima. Praticamente tutti i musei sono aperti, anche se con orari un po' ridotti, ma si può veramente godere. Quindi noi non ci abbattiamo, non ci piangiamo addosso, anzi chiediamo a tutti gli italiani che amano l'arte e la cultura di dare una mano a Firenze. Come sta andando la cucina toscana a Firenze, vale a dire il fine dining, dining ristorante o il ristorante magari più per il turismo? Da questa pandemia cosa porteremo a casa per avere o per dare un'accoglienza ancora più italiana? Guarda, intanto devo dirti che i ristoratori si sono organizzati bene durante il lockdown, nella fase finale, quando hanno potuto. Si sono organizzati con l'asporto, il take away, la consegna a domicilio, facendo un servizio straordinario, il che può valere anche per chi viene in vacanza, se prende un'abitazione in affitto. Praticamente quasi tutti i ristoranti sono aperti, anche nel centro storico, e la cosa più bella è che, grazie alle norme del governo, anche a un'iniziativa del nostro comune, noi abbiamo lanciato questo piano delle sedie e dei tavolini all'aperto, il che significa poter stare con gli amici, i parenti in totale sicurezza, perché all'aperto ovviamente è più facile rispettare le distanze, e quindi in tutte le piazze più belle di Firenze si può mangiare, passare una serata fresca, tranquilla. Suolo pubblico disponibile ai ristoratori Che è stato uno dei grandi temi, no? Sul dare ai ristoratori qualche deroga in più, un po' di flessibilità in più, giustamente. Poi anche sulla cultura, per esempio, siamo stati i primi a riaprire il teatro con grandi sforzi, perché con le regole Covid una sala di 1800 posti può ospitare solo 200 persone. Nonostante questo abbiamo voluto comunque aprire il Teatro del Mangio Musicale, abbiamo fatto alcuni concerti strepitosi, penso per gli amanti della musica classica Zubin Mehta, che ha diretto il grande pianista Barenboim. Continueremo con altri titoli e poi stiamo anche organizzando molti spettacoli all'aperto, cultura all'aperto, perché stiamo riscoprendo a causa del Covid comunque l'opportunità di valorizzare tanti spazi pubblici. Poi sindaco, Firenze è campione del mondo di rinascimento, cioè adesso la storia è fatta di corsi e ricorsi e questo è oggettivo, insomma, se c'è un luogo che ha insegnato al mondo come da un problema possa nascere un'opportunità, una ripartenza, insomma, questo posto è Firenze. È vero, se pensiamo alla peste nera del 1348, è stata terribile non solo a Firenze, in tutta Europa, però dopo quel terribile momento è scoppiato il Rinascimento nella nostra città e poi da lì in tutto il continente. E quindi dobbiamo vivere qualunque prova, qualunque dramma, anche duro, come un'opportunità. Io ne sono molto convinto, questo significa stare con i piedi per terra, i problemi non mancano, ma dobbiamo darci una prospettiva e dobbiamo avere un po' di fiducia. Sarà più qualità probabilmente anche tra di noi, perché poi nella parte ristorazione anche noi siamo adeguati a questi distanziamenti, però in un ristorante come il mio, io continuo a dirlo, probabilmente non tornerò indietro, perché mi ha insegnato tanto questo periodo. E è per vero. Dare un servizio a un cliente, a un ospite che è alla ricerca di tranquillità, devi mantenere determinate regole. Spero che anche le nostre città d'arte faranno un passo verso magari vedere quali turisti o come prendere tutti i turisti che vorranno arrivare senza maltrattare le nostre belle città. Proprio così. Grazie. Grazie sindaco. Grazie a voi, vi aspetto a Firenze, tutti. Assolutamente. Siamo pronti a raggiungere la città, insomma. Buon sabato. È un piacere assoluto per tutti noi. Grazie al sindaco. Abbiamo un'altra ricetta, vogliamo fare un'altra ricetta? Quale vuoi scegliere? Ricetta basilicata facciamo, no? Facciamo basilicata, bello. Chips di peperoni cruschi, basilico e prezzemolo. Molto semplice, 100 grammi, 160 grammi di peperoni cruschi e sfogliamo. 4 foglie di basilico lavate e asciugate, comprese 4 foglie di prezzemolo, se anche loro prezzemolo piatto, lavate e asciugate. 5 deciditi di olio extravergine di oliva. Scaldiamo l'olio a 165 gradi, friggiamo il basilico e il prezzemolo. Togliamo, scoliamo, lasciamo a parte su un foglio di carta assorbente. Cosa facciamo poi? Prendiamo questi nostri peperoncini che sono già secchi, li friggiamo ulteriormente giusto per dargli una temperatura un po' più calda. Dopodiché serviamo in piccole ciotole il nostro peperoncino, le foglie di basilico e prezzemolo croccante. Poi volendo possiamo grattugiare sopra un po' di buccia di limone o addirittura del rafano crudo, che danno un qualcosa di più a una semplice chips che può essere abbinata a un aperitivo. Beh, mi sembra anche qui che hai tirato fuori della creatività. Molto quasi semplice. Che lei sappia cucinare, Oldani. Senti, SOS, abbiamo, no? abbiamo gli SOS Oldani. Facciamo gli SOS quelli. Oldani, mettiamoli, vai, prego. SOS Oldani. Ilenia da Como. Caro chef, ho cucinato delle bracciole di maiale in agrodolce. La ricetta mi consigliava di passarle prima in padella per 6 minuti per lato e poi in forno 10 minuti per ultimare la cottura. Alla fine risultavano secche. Sono state troppo in padella o troppo in forno? Secondo me sono state cotte troppo. Quando si cucina un pezzo di carne, soprattutto una lombata come questa che non ha grasso dentro, bisogna sempre fare attenzione e rispettare il cuore della carne. In questo caso io andrei sui 60-62 gradi. 60-62 gradi. E uno come fa esattamente a cogliere? Utilizza un termometro. Un termometro. Abbiamo i termometri in cucina, non sono quelli. Poi adesso ci sono quelli per misurare, no? Cioè, esatto, quelli. Tieni anche quelli. Io ce l'ho una casa. Il cuore, che una sonda entra e vedi la temperatura, così non sbagli. Perfetto. Dai 60 ai 62. Andrea da Pesaro. Pesaro. Ciao chef, c'è un modo per smorzare il sapore troppo forte della senape? Usarne poca, è molto semplice, ne usi un po' meno, visto che è intenso, diluirla con un buona goccio senape di olio, aceto magari, e poi basta. È una mia passione recente, la senape. La senape durante di il lockdown Dijon, di Dijon, che è quella in grani, è quella che apprezzo più di tutti. Più di quella in crema, diciamo. Sì, io apprezzo molto di più perché poi ha una consistenza un po' croccante, profumata, intensa, per cui quella è perfetta. Antonelliana da Montebelluna, sembra uno scioglilingua. Buongiorno chef, in alcune sue ricette le ho sentite indicare non il numero di uova ma il peso. Ma quanto pesa all'incirca un tuorlo? E un uovo compreso di tuorlo e albume? 70 grammi il peso medio delle uova, 50 l'albume, 20 grammi il tuorlo, ci sono altre uova più carotenate, quindi col tuorlo più giallo, più intenso, che pesano magari anche 30 grammi, per cui peso medio è tra i 20 e i 30 grammi il tuorlo e tra i 50 e i 60 grammi l'albume. Mamma mia, tutto sai, eh? Le temperature, i pesi, sei bravo, sei bravo. Va bene, salutiamo anche Montebelluna con Aldo Serena e tutte le altre glorie di questa, di questo paesino davvero molto bello del Veneto. Buona estate. Buona estate a tutti, è stato un viaggio lungo quest'anno, pieno di colpi di scena, perché ovviamente ci siamo fermati anche noi durante il periodo della pandemia, del lockdown, insomma, non potremo mai cancellare, non potremo mai dimenticare come italiani quello che il nostro paese ha vissuto, però insomma in questa estate italiana, 30 anni dopo l'estate italiana raccontata da Gianna Nannini e Bennato per i mondiali di calcio, insomma è bello scorgere dei segni del futuro, e se ci salverà qualcosa ci salverà sicuramente la bellezza e il gusto dei nostri prodotti, dei nostri ingredienti e delle nostre città, no? Questo credo sia la sintesi finale. Assolutamente sì, ci riprendiamo spero a settembre, sì, con sì, sì, nuova stagione, nuova stagione, nuove regole, con nuove ricette, con nuovi prodotti, con nuovi piatti, ma con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di mangiare come parliamo. Buona estate a tutti. Tutte due le cose. Buona estate, amico ciao. Mio e ciao, compagno di viaggio mio. Grazie, ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.